Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto Mondo. Eccoci qua, ben ritrovata Giulia. Buongiorno. Cara Giulia Crivelli, allora da cosa vogliamo cominciare oggi la nostra consueta... Guarda, inizierei comunque dagli Stati Uniti, sì, perché anche lì Trump ieri ha fatto una conferenza stampa anche abbastanza lunga dalla Casa Bianca, mentre il suo rivale Joe Biden faceva degli incontri un po' diversi, con anche uno stile diverso. Joe Biden ha sempre la mascherina, Trump non ce l'ha mai, soprattutto in Pennsylvania. In questa conferenza stampa Trump ha ricordato che sono stati ricreati molti posti di lavoro, ha omesso che sono anche ci sono state altrettante richieste di sussidi di disoccupazione, però insomma ha cercato di dare una ventata di ottimismo per quanto riguarda l'economia, e poi ha parlato anche di vaccini. E su questa è stata una dichiarazione che adesso vedremo se avrà delle reazioni ufficiali da parte dei produttori di vaccini. Lui ha detto: penso di potervi dare, adesso sentiremo proprio la sua voce, delle ottime notizie, forse persino in ottobre, quindi addirittura prima di quel fatidico 3 novembre che è la data delle elezioni, per una distribuzione iniziale di alcune dosi di vaccino. Sentiamo. Sentiamo Trump. In a very short period of time, could even have it during the month of October. So contrary to all of the lies, the vaccine, that they're politicalized, they'll say anything, and it's so dangerous. Ecco, lui accusa, a parte che ha definito proprio in conferenza stampa, penso in diretta mondiale, ha detto che Joe Biden è stupid e che tutti lo sanno, ma a parte questo che fa parte dei colpi bassi di cui parliamo quasi ogni giorno. Però qui diceva che sono delle political lies, delle bugie politiche, quelle che Joe Biden e Kamala Harris e tutto l'entourage della campagna elettorale dei democratici direbbero sul vaccino, cioè cercando di, come del resto sa bene anche il medico con cui che hai appena intervistato, ci sono delle procedure. Per questo possiamo dire che quando un vaccino viene approvato, tranne quei minimi effetti collaterali che qualsiasi farmaco ha, può essere definito molto sicuro, perché ci sono dei protocolli molto rigidi. E trovo molto interessante, lo riprende oggi il Wall Street Journal, è presto potrebbe esserci un annuncio congiunto di AstraZeneca, Johnson & Johnson e Pfizer, quindi tre grandi aziende di Big Pharma. Tra l'altro AstraZeneca è quella che entro l'anno a sua volta potrebbe già avere delle dosi disponibili, insieme alla ricerca dell'Università di Oxford, e vorrebbero appunto, per ora sono indiscrezioni giornalistiche, ma se le pubblica il Wall Street Journal, New York Times, qualcosa di vero c'è, un paper congiunto per dire: noi non vi assicuriamo che non accelereremo i tempi anche di fronte a grandi pressioni da parte della Casa Bianca, perché per noi la priorità è che sia sicuro. Naturalmente l'affare è troppo grande per poter andare dietro a certe pressioni, volendo però anche leggere sospetto, in controluce, pensa alle possibili cause a cui vanno incontro delle aziende farmaceutiche se il vaccino poi ha veramente degli effetti collaterali non previsti e per i quali il pubblico non è stato avvertito. Quindi insomma la questione è molto delicata. È interessante anche il fatto che Trump, che per certi aspetti è assimilabile insomma dal punto di vista politico al populismo, anche nell'ambito diciamo sanitario, ha un certo tipo di negazionismo, pensa al fatto che, come dici sempre tu, non usa mai la mascherina, invece sul fatto dei vaccini ha solide certezze, cioè sì, per lui il vaccino è fondamentale, lo vuole prima possibile, non ci sono tentennamenti. Tra l'altro in un'altra intervista che ha concesso ieri a Fox News, che poi è stata ripresa da molti giornali, a domanda precisa, ma se il vaccino fosse pronto entro l'anno, lei lo proverebbe, lo testerebbe si farebbe volontario, ecco, e lui ha detto assolutamente sì, e però ha anche detto: tanto qualsiasi cosa io facessi mi attaccherebbero, perché se dicessi che non lo voglio provare, direbbero che voglio essere sicuro, se lo provassi mi direbbero che lo tolgo a qualche persona anziana più bisognosa, ma io lo proverò. Questo è on record, quindi vediamo se lo farà davvero. Ancora per quanto riguarda gli Stati Uniti, c'è una cosa sui poliziotti, vittime sì, del Covid, perché è un bilancio che inizia a essere molto pesante. Sì, la copertina di USA Today pubblica proprio le cause di morte dei poliziotti nel 2020. Per Covid-19 sono già 101 i poliziotti che hanno perso la vita quest'anno. La voce successiva è quella per un colpo di arma da fuoco e sono 33. E questo numero 101 è già superiore al numero di poliziotti che hanno perso la vita nell'emergenza post 11 settembre, quindi 9-11, questo ho detto 9, scusatemi. Quindi insomma l'idea che anche questi sono sicuramente lavoratori a rischio, perché sono soprattutto nelle prime fasi, quando ancora magari, poi ricordiamolo sempre, negli Stati Uniti non ci sono misure anti-Covid uguali per tutti gli stati, quindi naturalmente molti contatti con il pubblico, molti interventi per disperdere i piccoli o grandi assembramenti, e questo è il risultato, e USA Today giustamente ne fa la storia di copertina. Allora, i giornali americani hanno tanti spunti, però se sei d'accordo, Giulia, sospenderei un attimo e ti chiederei invece, se poi abbiamo tempo ci torniamo, aggiornamenti sulla Bielorussia, letta dai giornali tedeschi che se ne occupano molto, perché oggi ci sono notizie, questo membro dell'opposizione che sarebbe stata presa alla frontiera, non sa se lei stava cercando di scappare, in realtà la stavano buttando fuori, sembrerebbe, ma lei è voluta rimanere. È una vicenda appunto dai contorni, come dici tu, ancora poco chiari. Financial Times decide di mettere la foto in prima pagina di questa oppositrice, membro dell'opposizione bielorussa, Kolesnikova, e tra l'altro ho guardato, purtroppo non ho saputo tradurlo, ma ho trovato traduzioni qua e là, il Kommersant, che è un quotidiano russo, che a sua volta cerca di ricostruire la vicenda, e come dici tu non è ancora chiaro nemmeno nel quartier generale dell'opposizione bielorussa come siano andate esattamente le cose. Questo riapre per i giornali tedeschi lo scontro tra, diciamo, l'Unione Europea, la Germania in particolare, che è stata la più forte oppositrice di Putin nelle ultime due settimane, e appunto il Cremlino, per due motivi. Primo, perché ieri, come sappiamo, Navalny, tra l'altro l'oppositore di Putin, che è stato avvelenato e che è stato curato in Germania, si è risvegliato dal coma, o è stato risvegliato dal coma farmaceutico, ma per ora non ha fatto dichiarazioni, almeno non riportate dalla stampa. E poi c'è il fronte della Bielorussia, e su questo aprono tutti i quotidiani tedeschi. Ricordiamolo, perché naturalmente loro cercano di fare anche un po' il punto su questa questione del gasdotto Nord Stream 2. Certo. Questo era un accordo per la Germania, viene da molto lontano, perché addirittura il Nord Stream 1 l'aveva firmato Gerhard Schröder, che era il cancelliere prima naturalmente di Angela Merkel. Quindi, come dicevamo ieri, interrompere questo grandissimo progetto, che naturalmente è strategico per la Germania per il rifornimento di energia, sarebbe una mossa per la Germania forte, di Angela Merkel, forte. Fortissima. Però se ne sta ancora parlando, perché di fronte a un'Unione Europea di fatto zitta per quanto riguarda la questione Navalny e ora per la Bielorussia, forse un segnale naturalmente di quelli economici importanti, per quanto pesante anche da un passo pesante da prendere, da fare anche per la Germania, forse qualcosa smuoverebbe al Cremlino. Riaprono le scuole in Spagna e se ne parla sui giornali. Sì, ci sono queste foto bellissime dei bambini piccoli con le loro piccole mascherine, le maestre che gli disinfettano le mani. Insomma, per ora anche lì, con tutte le differenze, perché la questione è regionale, anche la materia scolastica è di competenza regionale anche in Spagna, però per ora tutto bene. Naturalmente qui navighiamo un po' tutti a vista, nel senso tutti, certo, i paesi. Abbiamo visto anche la Germania con la sua teutonica organizzazione, comunque alcune scuole ha dovuto richiuderle. Il tema è sempre quello. Tra l'altro anche in Inghilterra, nel Regno Unito, sta succedendo la stessa cosa, e lì è intervenuto ieri anche il ministro della salute Hancock, sì, e ha detto questa seconda ondata, perché loro lì parlano apertamente di seconda ondata, è dovuta soprattutto all'imprudenza dei più giovani, che hanno trascorso insomma troppo tempo fuori casa, troppe persone troppe insieme, tornano a casa e infettano le persone di altre età più già vulnerabili. Che hai parlato di Gran Bretagna, riprendono i negoziati per la Brexit. Sì, se vuoi, se abbiamo tempo, sentiamo la voce di Barnier, che è il capo negoziatore per l'Unione Europea. Ha dato un'intervista a Radio France e ha chiaramente detto di essere molto preoccupato. Je reste préoccupé. C'est une négociation difficile parce que les Britanniques voudraient le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. dice giustamente, ha ragione, in quest'ultima uscita di Boris Johnson, che dice entro il 15 ottobre io voglio questo accordo, vogliono un po' il meglio dei due mondi, cioè vorrebbero continuare ad avere tutti i vantaggi che si hanno quando si è all'interno di un mercato unico economico, e però vorrebbero anche essere liberi da tutte quelle regole alle quali invece tutti noi membri dell'Unione Europea ci in qualche modo ci atteniamo. E questa è, naturalmente lo sappiamo, Boris Johnson è in difficoltà su tanti fronti e quindi si sta giocando di nuovo la carta della Brexit, che è quella che lo ha portato al trionfo elettorale di dicembre, no? Ricorderete, certo. Il Get Brexit Done. E quindi... Bene, staremo a vedere, oggi riprendono appunto i negoziati e vedremo se ci sarà o no o meno l'accordo. Grazie Giulia, è tutto per oggi, con te è tutto per anche per quanto riguarda Effetto Giorno. Noi ci risentiamo naturalmente domani per la puntata di oggi con Laura Faggin in redazione, Pietro Lacorte in regia. Ciao, buona giornata, ciao. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.